un annuncio che il responsabile e che era all'interno di un percorso di trattativa che stavamo facendo con l'azienda in un ambito di transizione e di riconversione dello stabilimento, ma la multinazionale, tra l'altro capeggiata dal fondo americano KKR, ha deciso di procedere alla chiusura dello stabilimento lasciando i lavoratori a casa in mezzo alla strada, e questo è un elemento assolutamente irresponsabile da parte sia dell'azienda che del fondo americano KKR, che tra l'altro sta acquistando la rete TIM italiana. Io sono dentro lo stabilimento in questo momento, stiamo per fare le assemblee e decidere insieme ai lavoratori il percorso di mobilitazione, di scioperi per opporci a questa decisione irresponsabile da parte dell'azienda. Sono 230 le persone che rischiano il posto e l'azienda motiva, come dire, questa decisione con l'aumento dei costi dell'energia e, come dire, i motori elettrici che rubano terreno a quelli endotermici. Sì, questa è la banalità della quale stavamo parlando. Marelli è un'azienda multinazionale che ha stabilimenti in tutta Europa e anche in Italia, sono più di 6.000 dipendenti in Italia, e quindi ci sono dei percorsi di transizione e di innovazione del prodotto che però hanno deciso che su Crevalcore non erano da attuare. Questa è una decisione che noi contestiamo, anche perché sappiamo che il PNRR e il Ministero ha le risorse per accompagnare le aziende in questo percorso, che secondo noi è corretto ed è giusto, ma deve essere un percorso che non deve essere pagato dai lavoratori. La produzione verrebbe spostata a Bari, quindi non è che cesserebbe. La produzione di una parte verrebbe spostata a Bari, mentre quella della fonderia verrebbe dismessa e esternalizzata da altri, e quindi c'è una logica appunto che non prende in considerazione la necessità di un percorso che non faccia macelleria sociale, ma è una decisione squisitamente economica. Non è redditizio, allora chiudiamo e lasciamo la gente in mezzo alla strada. Come dicevi prima, voi invece sostenete che ad esempio una riconversione della fabbrica sia possibile? La riconversione della fabbrica è assolutamente possibile, perché ci sono le professionalità, ci sono le strutture, è chiaro che devono essere accompagnate con ricerca e sviluppo. Marelli ha il centro di ricerca e sviluppo su Bologna, tra l'altro, e quindi un percorso che deve accompagnare la modifica delle produzioni o la riconversione su prodotti ecologicamente sostenibili all'interno dell'automotive. È un tema che è chiaro a tutti, di cui si sta discutendo a livello mondiale, ma che il precedente che vuol creare Marelli è pericolosissimo, perché apre a questa idea per la quale dentro questo percorso di transizione a pagarla devono essere lavoratrici e lavoratori. Ieri c'è stato un primo sostegno da parte della regione, della città metropolitana, poi c'è stato anche un primo sciopero, venerdì ce ne sarà uno di 8 ore, quindi insomma state iniziando una lotta. Sì, lo sciopero di venerdì è stato proclamato di tutti gli stabilimenti Marelli in Italia. Chiaramente Crevalcore decideremo oggi insieme ai lavoratori come procedere con la mobilitazione fin da subito. Ieri sera già i lavoratori erano in presidio davanti ai cancelli. Noi diciamo che abbiamo chiesto urgentemente un incontro al Ministero e che finché non ci sarà questo incontro dall'azienda non uscirà un bullone, non uscirà niente, e i lavoratori incroceranno le braccia e decideremo le lotte per provare a far cambiare idea, a trovare una soluzione che non lasci indietro nessuno dei 230 lavoratori di Crevalcore.